crew e il comandante vi augura un felice soggiorno e buona vacanza. Grazie. Arrivederci. Per chi c'è tra le emozioni, continui a baciare e rubare. Sempre di babare per le zone dell'amore. Tu, come stai? Tu, come stai? Tu, come stai? Tu, come stai? Così te ne vai? Hey, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. I feel like zero. Hey, hey, tutto bella, hai occhi una stella, carina, piccolina, con lo sguardo alla bambina. Io non lo sono, no, no, no, no, per un mondo solo no, impazzerò. Hey, hey, tutto bella, hai occhi una stella, carina, piccolina, con lo sguardo alla bambina. Io non lo sono, no, no, no, no, per un mondo solo no, impazzerò. Hey, hey, signorina, conosco una bacchina dove non si fa attenzione perché cerca l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, per te bavare per le zone dell'amore. Tu, tu, come stai? Tu, tu, tu, come stai? Tu, tu, come stai? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, come stai? Cosa te ne vai? Hey, bella ciao, hey, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tu, bella ciao, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Perché cerca l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, per te babare per le zone dell'amore. Tu,